andato via. Italo. Devi passare di sotto, Fabio. E c'è il telefono lì, non so chi ha telefonato. E aprimi l'acqua là, anche la casa. Se tu mi dicevi dove andavi o cosa facevi, io l'avrei già aperta. E poi le robe lì, del coso, dell'armadio, ho dovuto portare tutte in cantina perché non c'è spazio per la portare. Liberare il coso. E certo che devo liberare. E allora ho già liberato, l'ho messo in cantina.